Soul Shakedown Party compie 30 anni e per farlo organizza una giornata di reggae music e di socialità a Ex Centrale il 21 maggio dalle ore 18. Per parlare di questa iniziativa non potevamo che sentire Pier Tosi, ciao Pier, che è in collegamento telefonico con noi, ciao. Ciao Adele, ciao e ciao a tutti gli ascoltatori. 30 anni di Soul Shakedown Party mi sembra un traguardo davvero grandissimo e, come dicevo prima, si organizzerà una giornata all'insegna della reggae music e di tante iniziative. Hai voglia di raccontarci come si strutturerà questo grande compleanno? Sì, assolutamente. Intanto volevo dire che non amo le grosse celebrazioni, però ovviamente 30 anni non erano da lasciare passare così inosservati. Intanto volevo anche ringraziare i compagni di Ex Centrale che ci ospitano. Guarda, ci sono varie cose, sarà una festa lunghissima che si apre intorno alle 18:30-19 con un appuntamento, peraltro, se vogliamo, tra virgolette, culturale, per un incontro in cui è possibile chiacchierare, e cioè è una sorta di workshop, di seminario che ha un generico titolo sulle origini della storia del reggae e sulla storia del reggae, in cui io, attraverso anche l'ausilio di opportuni ascolti, racconterò delle cose, e questa cosa durerà più o meno un'oretta. Poi ci sarà musica suonata dai dischi, da amici, diciamo, da fratelli, tra virgolette, che saranno i miei compagni del Vinyl Club, e cioè Mikey Tuff e Raf D, e anche Lorenz. Oltretutto Raf D e Lorenz sono redattori musicali della Città Fujiko. Voglio anche prediligere il momento del live, anche perché ci tengo a sottolineare che senza i musicisti che suonano non ci potrà mai essere la musica, a dispetto del fatto che l'apparenza dei social, i video eccetera eccetera potrebbero far pensare il contrario. E quindi ci saranno due live bands, una più giovane, e cioè i B-Boat, che sono dei protagonisti della scena bolognese, un'ottima e solida reggae band, e poi ci sono degli amici da Venezia, cioè Radio Rebelde, attivi dagli anni 90, tra l'altro hanno anche il nome radio nel nome, il che non guasta, infatti si sono ispirati nel nome a questa famosa radio rivoluzionaria cubana. Sono attivi dagli anni 90, quindi dai tempi in cui Soul Shakedown Party era molto giovane, e una band di amici che ha sempre suonato un ottimo roots, ispirato a gruppi inglesi come Aswa, Steel Pulse, e verranno quindi anche loro, diciamo, l'incarnazione moderna dei radio, abbastanza tecnologica. Quindi ci sono anche i due live, e al termine dei live andremo avanti ancora con musica da ballare, dai giradischi fino ad abbastanza tardi. Diciamo che la prima parte della serata, oltretutto, sarà un po' in modalità, tra virgolette, se vogliamo, aperitivo, e si svolgerà all'aperto nel bellissimo giardino di Ex Centrale, mentre poi la parte dei live, la parte finale, è al chiuso. Dagli anni 90 ad oggi, 30 anni, come dicevamo prima, sono davvero tanti. Ti chiedo, Pier, come si gestiscono questi 30 anni di trasmissione, cosa è successo in questo tempo? Ma guarda, ho incominciato in quegli anni là, che sembrano lontanissimi, anche perché tra l'altro non c'era internet, non è come adesso che hai tutta la musica in anteprima, puoi sentire, sai in tempo reale quello che succede a concerti, aneddoti. Ai tempi era veramente difficile approfondire le cose, oltretutto occupandosi di musica giamaicana, vista la lontananza con la Giamaica, che ai tempi sembrava veramente un'altra galassia. Già solo andare a Londra per comprare dei dischi e andare a visitare i quartieri caraibici di Londra per noi era una grande avventura. Diciamo che è cambiato tanto attraverso gli anni, la scena italiana è cresciuta, e io l'ho raccontata attraverso tante interviste, attraverso anche l'amicizia a tanti artisti. Poi è arrivato il Rototom Sunsplash, questo grande festival in Italia che ha fatto tanto per la crescita del reggae. Poi ovviamente internet, che ha reso tutti più vicini, insomma tante cose sono cambiate. Sono stati sicuramente 30 anni di musica bellissima, e siamo ancora e sono ancora sul pezzo a raccontare quello che succede, a dispetto del fatto che le musiche marginali soffrono comunque, per vari motivi, un po' di crisi virtuali, diciamo così, e tra queste c'è anche la reggae music. I primi 30 anni speriamo che siano davvero i primi di tantissimi altri 30 anni per Soul Shakedown Party. Pierre, io ti auguro chiaramente una buona fortuna per la serata anche del 21 maggio e poi tanti auguri a Soul Shakedown. Grazie Adele, ovviamente tutti invitati a Ex Centrale sabato per questa grande festa dei 30 anni. Grazie mille. Grazie a te, ciao. Ciao, ciao, ciao.